Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente la presentazione, per quello che si è potuto capire, della manovra, l'intervento quindi del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti alle Commissioni Riunite della Camera e del Senato oggi, le repliche del leader del PD Bersani, dell'UDC Casini e di altri esponenti dell'opposizione, oltre che del governo, questo in apertura, in una giornata in cui, come molti di voi già sanno, la borsa è una borsa altalenante, va detto subito, non sta recuperando il calo di ieri, siamo a un po' meno della metà come recupero, però va segnalato che dopo una giornata iniziata positivamente, poi che aveva visto una frenata delle borse e anche un Milano che andava in negativo, non di tantissimo ma in negativo, adesso con l'apertura di Wall Street una volta tanto le borse hanno avuto un'iniezione di fiducia, l'America guadagna il 2,70% e quindi Parigi il 2,40%, Francoforte il 3,60% e il 3,60% di rialzo anche di Milano, Londra per concludere più 3%. Questa mattina bene si erano mosse alcune borse, però ripeto, poi intorno alle 12 c'era stata di nuovo incertezza su tutto il mercato e Milano era scesa praticamente sulla parità poco prima dell'apertura di Wall Street, intorno alle 15. Devo dire che il FTSE MIB poco prima delle 15, cioè verso le 14-13 di oggi, è arrivato a perdere anche il 3%, quindi scrive un ascoltatore, sembra la borsa del Perù, immagino per i scendi e le montagne che accompagnano i grafici. In effetti è vero, i titoli che recuperano i bancari, ma non quelli che più hanno perso e non tutti in maniera uguale, e devo dire anche non in maniera sufficiente a annullare i cali di ieri. E la migliore tra le banche è la Popolare di Milano, più 7,70%, poi Intesa San Paolo più 5,92%, ieri ha perso oltre il 12%, quasi 13%, per cui il recupero è solo parziale. Banco Popolare più 4%, UbiBanca più 4,1%, anche qui vale il discorso fatto per Intesa San Paolo. E tra i titoli segnaliamo invece che il migliore in assoluto non è un bancario ma è ST Microelectronics, più 10%, il secondo miglior titolo anche in questo caso non è un bancario ma è Prysmian, quindi l'ex Pirelli Cavi, più 8,60%, poi Pirelli più 7,16%, Buzzunice più 6,15%. Ancora per quello che riguarda i titoli negativi oggi non ce ne sono. Segnaliamo invece che la banca che recupera meno è Unicredit, che guadagna il 2,70%, vicina a un euro per azione, 99,5 centesimi, ma anche qui il recupero non è sufficiente. Il peggior titolo, ma guadagna qualcosa, è Bulgari, più 0,1%. Questo per quello che riguarda il mercato principale. Parleremo quindi dell'intervento del Ministro Tremonti, delle repliche e poi anche dell'incontro tra il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, il presidente del Consiglio Berlusconi, governatore della Banca d'Italia in uscita, ma anche il prossimo presidente della Banca Centrale Europea, e poi l'incontro che avverrà tra poco con il presidente della Repubblica Napolitano. Non è un mistero che sta circolando a Roma in questo momento l'ipotesi che la manovra finanziaria, quindi il disegno di legge, venga presentato non più il 16 agosto né il 18 agosto, ma potrebbe arrivare già domani o sabato, e l'intensificarsi di questi incontri sembrerebbe andare in questa direzione. Vedremo, chiaramente se arriverà la notizia durante la diretta ve la daremo, altrimenti poi ve la daranno i nostri GR. Non si è capito, ma appunto fa parte del disegno di legge, e l'impressione che molti hanno avuto è che Tremonti non volesse oggi mostrare completamente le sue carte, non si sono capiti i dettagli della manovra né come si farà a trovare una quadratura del cerchio, visto che la Lega è contraria all'ipotesi di un innalzamento dell'età pensionabile e il Presidente del Consiglio è contrario a un'ipotesi di tassazione patrimoniale, quindi sui patrimoni e non sui redditi da lavoro. Staremo a vedere e ci attendiamo appunto a maggiori chiarimenti dal disegno di legge. Si attendono un po' tutti, c'è una nota oggi di Confindustria, un intervento anche del direttore generale Giampaolo Galli, che dice insomma non abbiamo ancora capito in sostanza come si arriverà a questi 20 miliardi che serviranno. Sono circa 333 euro a cittadino, neonati inclusi, che serviranno a portare il deficit PIL, il rapporto tra il deficit e il PIL l'anno prossimo non più al 2,7% previsto dall'ultima manovra, ma all'1,5-1,7%. Siccome un punto di PIL sono circa 15 miliardi, l'ammontare di questa correzione o ulteriore sul deficit dovrebbe essere intorno ai 20 miliardi di euro. E poi c'è il mistero di questa lettera che la Banca Centrale Europea ha scritto al Presidente del Consiglio. Tremonti ha detto: non possiamo rivelarne noi il contenuto, lo deve fare chi l'ha mandata, cioè la BCE stessa. Varie ipotesi che circolano, che la BCE avrebbe chiesto al governo italiano di portare il deficit non nemmeno all'1,5-1,7, ma addirittura all'1% l'anno prossimo. Oltre ai mercati e alla politica economica, chiaramente partiamo come sempre con le notizie in breve con gli altri mercati, l'oro e il petrolio. 349-238-6666 per i vostri sms. Alcuni di voi ci chiedono se è arrivata la decisione ufficiale sulla sospensione delle vendite allo scoperto in Francia e in Italia. Dovrebbe arrivare, non c'è nulla di ufficiale però. Sappiamo anche noi che circola voce che questa sospensione avverrà, la notizia dovrebbe arrivare entro la serata, vorrebbe dire bloccare tutte le vendite allo scoperto, quindi vendite che amplificano i cali di borsa. Non si capisce per quanto tempo, ma ripeto, di ufficiale non c'è ancora nulla. Dicevamo intanto dei mercati. Allora, l'oro ha un po' ritracciato dopo i record, i 2-3 record fatti ieri, è a $1,779 l'oncia. Il petrolio ha aperto leggermente in calo, $82,3 l'oncia. E ripeto a tutti quelli che ce lo continuano a chiedere, la benzina costa il 4,5% in più rispetto a luglio del 2008, con un guadagno stimato di 100 milioni di euro. Il ministro Romani ha detto che è inaccettabile, però vorremmo capire cosa può fare il governo su questo. Dicevo, la benzina costa il 4,5% in più rispetto a luglio del 2008, anche se il prezzo del petrolio espresso in euro è del 38% meno caro. Tra l'altro, do un'informazione di servizio, oggi il programma si può vedere anche sul sito del Sole 24 Ore in diretta. Ringraziamo i colleghi del Sole 24 Ore per questa opportunità. Andiamo avanti invece, perché tra l'altro oggi sono arrivati due dati dall'America. I sussidi alla disoccupazione sono scesi di 7.000 unità, un dato migliore delle attese, e il deficit commerciale invece è salito, cioè la differenza tra quanto gli Stati Uniti esportano e importano è sempre negativa, c'è un deficit, ma è salito più delle attese, del 4,4% a 53 miliardi di euro. Dell'altalena delle borse abbiamo detto, qualche notizia di stampa. Una banca asiatica avrebbe tagliato le linee di credito concesse alle principali banche francesi, altre 5 banche in Asia starebbero rivedendo le proprie posizioni verso la Francia e i paesi periferici dell'area euro, lo scrive oggi l'agenzia Reuters citando fonti bancarie. Però oggi l'autorità per i mercati francese, che è la Consob francese, ha detto che vi sono voci infondate che vengono continuamente diffuse e che concernono i valori finanziari dei quartieri a Parigi, cioè i titoli di Parigi, che vengono ad alterare il funzionamento regolare dei mercati. Cosa vuol dire poi questo, visto che le voci le abbiamo sempre e fanno parte della dinamica di borsa? Non lo so. Vi sarà un nuovo incontro tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy a Parigi martedì. Il rafforzamento della governance dell'area euro è il tema dell'incontro. In realtà potremmo tradurlo come, insomma, la speculazione adesso attacca anche la Francia e la Germania non è immune e i due paesi si preoccupano. Ancora i CDS sull'Italia. Cosa sono i credit default swaps? Li abbiamo definiti in maniera un po' grossolana, però come il premio che si paga sulla polizza per assicurarsi contro il rischio di fallimento di un paese in questo caso. Allora, come per gli automobilisti, più alto il premio più a rischio l'automobilista, anche in questo caso più alto il premio più a rischio il paese su cui ci si va a assicurare. Sono saliti sia quelli sulla Grecia che sulla Spagna che sul Portogallo, ma sono arrivati a record quelli sull'Italia, a 397, per un soffio sotto quelli spagnoli che sono a 403. Praticamente il timore degli operatori è che, nonostante l'intervento della Banca Centrale Europea che ha comprato obbligazioni spagnole italiane, ebbene, nonostante questo intervento, non sia sufficiente l'intervento della BCE nel riportare fiducia sugli investitori e soprattutto nel convincere gli investitori stessi sulla capacità che hanno le classi politiche e i governi dei vari paesi europei a risolvere la crisi dei deficit. Vedo molti che chiedono al 349-238-6666 se ha senso che una borsa faccia più 2, meno 0,1, meno 3% e poi più 3. No, non ha normalmente senso nell'arco di una giornata, in assenza di notizie epocali. Devo dire che la borsa di queste ultime due settimane è una borsa con volumi più alti del solito, ma sempre estivi, e che si muove come così, una scheggia impazzita, una tarantola, verso l'alto, verso il basso. Va bene, poi c'è la Banca Centrale Europea che nel suo bollettino dice cose abbastanza scontate, se la BCE me lo consente. Abbiamo fatto bene alzare i tassi a luglio, sono ancora accomodanti, la crescita dell'area euro sarà contenuta nel futuro, l'avevamo capito anche noi. La ripresa italiana è a rilento rispetto a altri paesi europei, anche a questo ci eravamo arrivati. Si vedo che molti scrivono che la lettera della Banca Centrale Europea va resa pubblica. Ripeto, Tremonti ha sostenuto che in questi casi è prassi che la lettera venga diffusa casomai da chi l'ha inviata, non da chi l'ha ricevuta. E devo dire che il ragionamento ha anche un suo senso, oltre che credere al ministro. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, il primo tema, l'intervento del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti di fronte alle commissioni costituzionali e finanze di Camera e Senato. Maggiore possibilità di licenziare, un aumento al 20% della tassa sulle rendite finanziarie, esclusi i BOT e i BTP, interventi sulle pensioni d'anzianità e sulle donne, taglio degli stipendi degli statali e delle festività. Questi punti salienti dell'intervento del Ministro Monti nella sua informativa alle commissioni di Camera e Senato. Ascoltiamo alcuni passaggi. Sull'articolo 81 vi arriveremo tra un attimo, ma la crisi, ha detto Tremonti, adesso ha un corso diverso, non è ancora finita, non è facile prevederne la dinamica. Riferendosi anche alla richiesta della Banca Centrale Europea, ha detto si valuti il diritto di licenziare, compensandolo però con meccanismi di assicurazione più felici, visto che i contratti a termine sono abusati come strumento, sono una specie di subprime. Possiamo fare delle ipotesi più di dettaglio, per esempio quella di accorpare sulla domenica le festività, ferme quelle religiose che sono oggetto di trattato. Può essere un modo tipicamente europeo per aumentare la produttività sistemica. Sulla materia del lavoro non possiamo essere, come dire, insensibili a quanto vi ho rappresentato sopra, non tanto a proposito della durezza dell'ipotesi dei licenziamenti, ma sicuramente dobbiamo e possiamo intervenire per rendere più flessibile il mercato del lavoro. E se posso aggiungere, sarebbe anche fondamentale anche evitare, ma questa è un'opinione più personale che di competenza, anche evitare forme di abuso dei contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, perché da quelle parti oggettivamente crei degli effetti di instabilità di persona che possono essere anche negativi per l'economia. Finisce che sono tutti dei subprime e questo forse non è giusto. Così il ministro Tremonti. Io continuo a guardare al mercato, è stabilmente sopra il 3% rialzo di Piazza Affari, sopra i 15.000 punti. Hanno ragione alcuni ascoltatori che dicono: attenzione, i CDS, cioè i premi pagati per assicurarsi sul rischio Italia, per le polizze di assicurazione sul rischio Italia, sono ai massimi storici, 400 punti. La differenza invece tra quanto costa l'Italia indebitarsi e quanto costa la Germania, lo spread, è solo di 280 punti. Cosa succederà quando la Banca Centrale Europea smetterà di comprare i nostri titoli di Stato? Il rischio è che lo spread si allinei al livello del CDS, cioè che si torni verso i 350-400 punti. Vedremo anche però la reazione della borsa alla nuova manovra finanziaria, una manovra correttiva, quella che porterà il deficit all'1,5-1,7%. Cosa toccherà? Quanto sarà credibile? Chiaramente, ormai lo possiamo dire con tranquillità, la prima manovra, quella di giugno, spostando il grosso dei tagli al 2013-2014, non è stata creduta. Non c'erano i tagli alla politica, dopo il 2014, ma non c'erano neanche i tagli alla spesa, anche quelli, tutti nel 2013-2014, anno elettorale 2013. Mo' l'hanno capito, nel senso che gli è stato fatto capire con le sbelle di borsa, e immaginiamo che la manovra che arriverà, oltre che anticipare tutto, sarà anche più credibile nella sua attuazione ed efficacia. Costi pubblici e privatizzazioni, costi della pubblica amministrazione, i costi della politica e le liberalizzazioni. Che cosa individua il ministro Tremonti come margine e linea di azione? Questo è il passaggio. Sicuramente dobbiamo intervenire con maggiore incisività sui costi della politica. Alcune ipotesi furono presentate e poi in un qualche modo attenuate. Credo che dobbiamo tornare su quella materia con l'impegno che non è solo riferito ai costi della politica in quanto costo dei politici, quanto prendono, ma anche quanti sono, e soprattutto sono le complessità del sistema che, stratificate in tanti anni, hanno oggettivamente causato un effetto di blocco, di mano morta e di costo eccessivo. Dobbiamo e possiamo intervenire con forza sulle liberalizzazioni, sui servizi pubblici e sulle professioni. E sarà l'applicazione della normativa europea e dei suggerimenti europei. Poi la precisazione del ministro: noi non vogliamo un taglio degli stipendi alla pubblica amministrazione. L'ipotesi è stata fatta in sede europea. Poi l'intervento del leader del PDL Alfano, che ha detto: ma la Banca Centrale Europea ci ha chiesto di tagliare i dipendenti pubblici oltre che gli stipendi. Ecco perché dico che sarebbe il caso di conoscerla un po' tutti questa lettera, così la smettiamo con le speculazioni. Dicevo, Tremonti ha auspicato un intervento incisivo sui costi della politica, piena privatizzazione dei servizi pubblici, e poi la conferma di quello che è il modulo per l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie e invece l'abbassamento della tassazione per quello che riguarda invece i depositi postali. Quella delle rendite finanziarie è una materia che è già in un qualche modo definita nelle scelte generali di politica fiscale. Se guardate la legge delega fiscale e assistenziale, trovate la norma che prevede l'allineamento delle aliquote. La scelta allora sembrava più giusta farla in sede di riforma, non abbiamo nulla in contrario a un intervento diretto che potrebbe essere A. Fermi i titoli di Stato o equiparati, B. La riduzione dei depositi bancari e postali dal 27 al 20, C. L'elevazione di tutti i titoli finanziari, esclusi i titoli di Stato, dal 12,5 al 20%. Della patrimoniale Tremonti, dell'ipotesi di una Eurotax, non ha parlato. Ha detto che ci possono essere sul lato delle entrate dei possibili contributi di solidarietà. Che appunto possono essere di varia forma, o una tassa, una tantum per i redditi sopra i 60.000 euro, però di nuovo torniamo a tassare i redditi da lavoro, oppure una tassa sul patrimonio, e quindi che va a tassare non i redditi da lavoro ma il patrimonio accumulato. La lotta all'evasione, maggiore severità e anche misure più forti, soprattutto per i casi di omessa fattura o scontrino. Dobbiamo e possiamo intervenire sulla evasione fiscale e alla richiesta dalle parti sociali abbiamo cominciato a rispondere, disponibilità sulla tracciabilità, su contratti di solidarietà. Scusate, su contributi di solidarietà e tra l'altro forme più efficaci di contrasto dell'evasione fiscale in caso di omissione della fattura o della ricevuta. Poi arriveremo all'articolo 81, la riforma dell'articolo della Costituzione che per ora prevede che non possa essere proposta una legge senza indicare la sua copertura finanziaria. L'articolo forse più disatteso della nostra Costituzione, visto il debito record che abbiamo, la riforma che il Ministro vuole, una riforma che dovrebbe includere nella Costituzione l'obbligo di arrivare a pareggio di bilancio, quindi a deficit zero ogni anno, e ne parleremo anche con chi ha proposto questa riforma, citato oggi da Tremonti, l'ex senatore del PD, attualmente al gruppo misto della Camera, Nicola Rossi, che esplicitamente Tremonti ha citato come quella di Rossi come la proposta che più lo convince. Però sentiamo intanto le reazioni dell'opposizione a questa prima parte, la parte che riguarda il presente, la manovra, il tamponare la situazione. Il leader del PD Bersani ha detto: attenzione, o facciamo una seconda Maastricht a livello europeo, quindi ridefiniamo la governance, si direbbe, i compiti, la politica europea, i ruoli e il modo in cui vengono prese le decisioni, oppure il mercato ad uno ci ammazza tutti. Poi ha aggiunto: consideriamo con amarezza che siamo uno dei più grandi paesi del mondo e stiamo a prenderci dalla Banca Centrale Europea non solo i vincoli, che mi sta bene, ma anche le ricette. Questo non mi sta bene. Poi l'elenco di Bersani delle proposte del PD per affrontare la crisi. Consideriamo con amarezza, per favore, con amarezza, che noi siamo qui, uno dei più grandi paesi del mondo, a prenderci dalla BCE non solo i vincoli, non solo le compatibilità, e questo mi sta bene, ma anche le ricette, questo non mi sta bene. Io chiedo formalmente che al governo non tremi il polso. Noi siamo passati da dibattiti parlamentari, conferenza stampa, eccetera, eccetera, ricette tutti i giorni, sì, la novità, il mondo. Ma perbacco, un po' di decisioni, per favore. Un po' di decisioni. Io credo che quando si viene qui ancora oggi, ministro Tremonti, a dire le scelte politiche le dovremo fare, ma perbacco, ma cosa aspettiamo? Cosa abbiamo aspettato in queste settimane? Vogliamo fare subito una legge costituzionale? Benissimo. Partiamo domani mattina e facciamo il dimezzamento del numero dei parlamentari. Da lì in giù ci occupiamo di regioni, comuni, accorpamento dei piccoli comuni, dimezzamento o più delle province, dimezzamento delle società pubbliche, questioni dell'acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione, un pacchetto ragionevole di dismissioni e così via. Liberalizzazione, usciamo dalle nebbie. Noi siamo pronti a consegnare proposte su ordini professionali, farmaci, filiera petrolifera, RC auto, portabilità conti correnti e mutui, separazione SNAM rete gas, servizi pubblici locali. Noi siamo contro la privatizzazione forzata, non siamo contro le gare e la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. Quindi liberalizzazione, ministro Tremonti, io un pochino me ne sono occupato. Ne ho fatta qualcuna che non era prevista né dalla Costituzione, neanche dall'Unione Europea, tipo quella del commercio. Non ho mai visto uno che si... e quanti si sono opposti alla liberalizzazione? Non ho mai visto uno appellarsi all'articolo 41. Semmai il contrario. E poi la proposta di PD su una patrimoniale, insomma, chi ha di più deve dare di più. Ha chiesto Bersani che le proposte del governo siano eque, noi faremo le nostre. Chi ha di più deve dare di più. Voglio vedere se le proposte che farà il governo avranno il necessario equilibrio sociale. Se ci sarà squilibrio su questo, sia chiaro che noi abbiamo proposte perché chi ha di più, a qualsiasi titolo, dia di più. E perché chi ha avuto qualche regalo immeritato in questi anni dia il suo obolo alla ripresa del paese. Così il PD Bersani, poi quello dell'UDC Pier Ferdinando Casini, che ha detto, insomma, ho capito di più leggendo i giornali da quello che ha detto oggi Tremonti. Servono risposte immediate, il commissariamento dell'Italia è un dato di fatto e non riguarda solo il governo ma anche le opposizioni. Attenzione, no a una patrimoniale secca, sia un contributo una tantum dai redditi più alti che tenga conto però anche del quoziente familiare, cioè se uno ha quel reddito da single, con un figlio, con due figli, con tre figli. La patrimoniale oggi, all'inizio di questa manovra, è sbagliata. Semmai questo è e può essere un capitolo finale di un percorso, anche perché sarebbe una vicenda una tantum. Un contributo di solidarietà dei redditi alti a secondo della composizione dei nuclei familiari è una cosa diversa. Allora, questo è l'intervento di Pier Ferdinando Casini e poi qualche dichiarazione. De Benedetti, caro De Benedetti, interpretato dall'ANSA poco fa, ha detto la patrimoniale è il dovere della classe dirigente, poi il botta e risposta tra Bossi e Tremonti. L'ultimo passaggio, quello che riguarda dell'intervento di Tremonti e anche delle repliche, che riguarda la modifica costituzionale sul deficit. E poi, come ricordavamo, l'ultimo passaggio di rilievo dell'intervento del ministro Tremonti, la riforma dell'articolo 81 della Costituzione, quello che attualmente prevede che non vi possa essere legge senza che vi sia un'indicazione della copertura finanziaria. Tremonti lo vorrebbe cambiare in un articolo che portasse a un obbligo di pareggio di bilancio costituzionalmente previsto, quindi previsto nella Costituzione, per quello che riguarda i conti pubblici. Sentiamo questo passaggio. Il pareggio in sé è il simbolo del rigore di bilancio. Non puoi spendere più di quello che prendi, soprattutto se per spendere più di quello che prendi emetti titoli di debito che nessuno ti vuole più o con riluttanza ti vogliono prendere. Va considerato il ciclo economico entro certi limiti, vanno considerati gli eventi eccezionali da definire in una logica di rigore, vanno considerati gli investimenti che potrebbero essere considerati con una logica di quote di ammortamento. C'è un problema di controlli ex ante ed ex post. Su questo credo che molte scelte politiche siano aperte, quali organi, con che criteri i controlli. Se debba o possa essere, io credo che debba essere reso esplicito il fatto che una legge fatta in violazione del nuovo articolo 81 è una legge incostituzionale. C'è un'ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione, se non a livello di Costituzione, a livello di legge applicativa, che riguarda per i governi locali, ed è già nei decreti sul federalismo, il fallimento politico. Quale ruolo assegnare alla Corte dei Conti? E infine la tempistica, quali formule di transizione. Come chiudere? Io credo che delle proposte presentate in Parlamento, quella ultima e tecnicamente più significativa sia, ma non voglio fare come dire torto ad altre proposte, credo che sia quella presentata dal senatore Nicola Rossi ed altri. E credo che possa essere una base di discussione. Quindi, dice Tremonti, la proposta tra quelle arrivate per mettere in Costituzione l'obbligo di pareggio di bilancio, la proposta che più mi convince è quella del senatore Nicola Rossi, ex senatore del PD, attualmente al gruppo misto della Camera e presidente dell'Istituto Bruno Leoni. Senatore Rossi, buonasera. Buonasera. Tremonti è abituato a citare Van Hayek e altri economisti della scuola viennese soprattutto, adesso cita Nicola Rossi, benissimo, immagino che ne sia onorato. Vorrei però farle ascoltare anche cosa ha risposto il suo ex collega di partito, mi riferisco al segretario del PD Bersani, proprio sul mettere nella Costituzione l'obbligo del pareggio di bilancio, quindi la riforma dell'articolo 81. Non si parli di cose che non esistono in nessun posto al mondo. Pareggio di bilancio per Costituzione. Noi non è che intendiamo nei secoli castrarci di ogni possibile politica economica. Ecco, questo. Quindi troviamo, diciamo così, un ragionamento che abbia le sue flessibilità. Secondo, che non sia per favore un diversivo. Perché noi non è che possiamo passare adesso, passare le giornate a discutere di questa cosa qui che diventa un tema di scuola su cui possono esercitarsi i migliori economisti italiani problematizzando all'infinito. Noi qui dobbiamo decidere, vi invito a decidere con rapidità, noi verremo lì con le nostre proposte. Allora, senatore Nicola Rossi, come si sente essere citato dal ministro Monti come, insomma, nel pantheon dei suoi riferimenti economici? Il fatto che il ministro consideri la proposta di legge che ho firmato, peraltro con altri 20 senatori di un po' di tutti gli schieramenti, non può che farci piacere, ma credo che la cosa che debba farci piacere più di ogni altra è il fatto che il governo ha espresso l'intenzione di procedere anche rapidamente su questa strada. Poi sono certo, diciamo, che si potrà trovare abbastanza facilmente una soluzione alle tante questioni tecniche che ci consegni una norma flessibile. Guardi, io ho sentito anche l'intervento di Bersani. La mia sensazione è che osservazioni formulate in termini così generici sono veramente di difficile commentabilità. È evidente che le norme, soprattutto norme come queste, devono essere scritte in termini flessibili, devono tenere conto del ciclo, devono tenere conto degli eventi eccezionali e così via. Se invece Bersani propone il ritorno ad una stagione in cui la politica poteva decidere rovesciando le conseguenze sulle generazioni future, beh, io questo personalmente dico no grazie, diciamo. E se anche ha in mente una stagione invece di investimenti pubblici, beh, il mio augurio è che questa stagione trovi un finanziamento in Eurobond, non nei titoli di Stato italiani. Quindi lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, pareggio di bilancio vuol dire che lo Stato spende quello che ha incassato, quindi non si crea deficit e non creandosi deficit non si va ad aumentare il debito. Il timore di Bersani è che da un lato si blindi, ci si autocastri, mettendolo in Costituzione, questo vorrebbe dire, se ho ben capito il ragionamento di Bersani, non poter avere dei margini anche per uno 0,5, uno 0,3% di deficit un anno, per margini di politica economica. E l'altro timore però, senatore Rossi, è che sia un modo per perdere tempo, prendere tempo e perdere tempo. La prima obiezione lei mi ha già risposto, dice insomma si possono trovare formule che tengano conto del ciclo economico, di fattori straordinari, però eliminiamo questo atteggiamento italiano per cui tu fai delle politiche economiche che poi si scaricano sulle generazioni future in quanto debiti contratti. Sul rischio che l'articolo 81 diventi un'ottima scusa per perdere tempo e prendere tempo? Ma guardi, questo lo capirebbe immediatamente, perché dalle parole del ministro Tremonti io deduco che il governo ha in animo di presentare entro le prossime ore, se non nei prossimi giorni, un decreto legge che risponde alla necessità di anticipare il pareggio di bilancio al 2013. Se così sarà, lo vedremo, ne vedremo anche i contenuti. Io credo che lì dove non si deve perdere tempo è esattamente su questo tipo di interventi. Per quanto riguarda la modifica costituzionale, io sono concorde con il ministro Tremonti, è necessario che si arrivi presto ad un primo voto, in maniera da dissipare ogni dubbio su quella che è la scelta di fondo della politica di bilancio italiana. Un'ultima domanda, senatore Rossi, ed riguarda invece, perché vedo i messaggi, anche il rischio che uno poi si autoblindi, si autocastri da solo. E cioè, la stessa Europa prevede un pareggio di bilancio, ma a suo tempo disse, va bene, l'importante è che il deficit stia sotto il 3%. Cioè non c'è il rischio di mettere nella carta costituzionale una cosa che poi difficilmente verrà mantenuta, oppure per essere mantenuta diventerebbe un autogol, una Maastricht ulteriore fatta in casa? Guardi, quando il 3% ci sembrava un vincolo troppo forte, l'Italia aiutò la Germania e la Francia a rendere meno forte quel vincolo. Il risultato di questa scelta è stato che non si è potuto intervenire nel caso greco come si doveva, quando si doveva. E poi quello che è successo in Grecia l'abbiamo visto tutti con i nostri occhi. Quindi lei non teme che ci sia un modo per legarsi le mani rispetto a politica economica? No, anche certamente è un modo per legarsi le mani, ma io credo che sia una maniera anche per far tornare la politica al suo ruolo vero. La politica deve decidere e assumersi le responsabilità. Si vuole fare un programma di investimenti a livello nazionale? Bene, si devono trovare le risorse per finanziarlo. Si deve avere il coraggio di andare dai cittadini e dire che le imposte che pagheranno serviranno a quello. Mi dice in conclusione che cosa invece non le è piaciuto? Immagino che il riferimento a lei le sia piaciuto. Che cosa non le è piaciuto, la convinta meno dell'intervento del ministro Tremonti? Bossi lo ha definito fumoso, Casini ha detto avevo capito di più dai giornali. Posso dirle con molta franchezza, diciamo, io mi metto nei suoi panni. Nei miei o in quelli Tremonti? No, quelli di Tremonti. Dovendo fare a distanza di ore, ripeto, un decreto legge a mercati aperti, io non so se avrei detto una virgola più di quella che ha detto lui. Naturalmente il punto vero, ciò che mi preoccupa è altro. Io noto anche dalle dichiarazioni di Bossi che c'è una reale divergenza di opinioni interna alla maggioranza. Quando ci sono divergenze di opinioni di questo tipo, spesso e volentieri le soluzioni che si adottano sono soluzioni fatte per non scontentare nessuno, ma sono soluzioni che non andrebbero bene né al Paese né all'Europa. Allora salutiamo e ringraziamo il senatore De Nicola Rossi, appunto ex senatore del PD, attualmente al gruppo nel ministro della Camera. Grazie, buonasera. Allora la borsa, visto che anche oggi ne abbiamo parlato ampiamente, vi do solo alcuni aggiornamenti. Positiva la giornata per due motivi. Da un lato, dopo che le borse avevano piegato tutte in negativo intorno alle 14, sono giunte voci sempre più insistenti di una decisione che potrebbe essere presa o solo da Francia e Italia o a livello invece europeo bloccare le vendite allo scoperto, cioè quelle vendite che amplificano di molto i cali in borsa perché fanno guadagnare chi le opera, quindi chi scommette sul calo in borsa, in gergo short selling. Praticamente, l'abbiamo spiegato molte volte, si vendono a terzi titoli che in realtà non si posseggono e che poi si riacquistano a un prezzo più basso e quindi guadagnando sulla differenza. Però anche Wall Street è servita oggi, l'America ha aperto con un più 2,70%, la conseguenza è che hanno recuperato in parte, solo in parte, i titoli bancari, meglio sono andati altri titoli rispetto anche ai cali di questi giorni. Penso a STMicroelectronics, più 10% a 4,88€, dopo i conti migliori dell'attesa del colosso mondiale Cisco. Penso alla Popolare di Milano, che è la migliore dei bancari, lì il recupero è quasi totale, più 10%, Prismian più 8,91, molto la calata nei giorni scorsi, la ex Pirelli Cavi, obiettivamente può seguire la ciclicità dell'economia, ma era molto giustificato il calo, Pirelli più 6,97, Intesa più 6,71, recupera la metà scarsa rispetto al calo di ieri, Buzzi Unicem più 6,60, Fondiare più 5,70, Impregilo più 5,60, Fiat più 5,5, Telecom più 4,80, Exor più 4,60, Luxottica più 4,4 e Ansaldo più 4,15%, Mediolanum anch'essa più 4%, chiudiamo con Monte dei Paschi più 3,90, Fiat recupera pochino rispetto ai cali dei giorni scorsi, più 3,80%, Generali più 3,80, Saipem anch'essa più 3,80 e poi la pattuglia degli energetici con Enel Green Power più 3,70, Eni più 3,60 come Enel, chiude UbiBank più 3,54 e Unicredito che ha recuperato solo il 3,4%, ma è sufficiente a portare il titolo di nuovo a 1 euro per azione. Chi perde? Nessuno, migliori e peggiori. In assoluto Molecular Medicine più 14,2% e Dea Capital più 14,1%, poi Prelios più 11,2% e ancora Elica più 9,91%, mentre sul fronte opposto Bastoggi perdono 7,92%, Aegon meno 10,94%. Abbiamo molto sentito parlare dei costi della politica, del taglio dei costi della politica. E allora, mentre appunto la riduzione dei parlamentari, il taglio annunciato da Tremonti, tante parole, ci è venuto in mente che insomma i costi della politica sono cose anche così, forse più demagogiche, ma che fanno riflettere. Che dovrei avere in collegamento Guido Gentili, terrorista del Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Ti faccio sentire, se mi date una musica un po' da Belle Époque, da pre-Titanic, perfetto. Ti leggo il menù del Senato, Guido, poi mi fai il commento quello serio. Perché qualcuno si è divertito a mandare in rete il menù del Senato. Allora, carpaccio di filetto con salsa limone, 2,76 €. Lamelle di spigola con radicchio mandorle, 3,34 €. Prosciutto e melone, più prosaico, 2,33 €. Questi sono gli antipasti. Primi del giorno, spaghetti alle alici, 1,60 €. Risotto con rombo e fiori di zucca, 3,34 €. Penne all'arrabbiata, 1,60 €. Zuppa ricca di verdure, 1,60 €. Secondi del giorno, filetto di orate in crosta di patate, 5,23 €. Qui si sale un po'. Omelette con mozzarella, 2,68 €. Scaloppina di vitella al pepe verde, 5,23 €. Servizio grill, chiudiamo con pesce spada alla griglia 3,55 €, lombatina di vitello ai ferri 3,55 €. Il menù del Senato, magari, sicuramente come scrivono gli ascoltatori non incide molto, ma sui conti pubblici, ma il messaggio e l'esempio va dato. Adesso torniamo a essere seri e ti chiederei di commentare Tremonti, Bersani, ma anche il Bossi che gli dice un po' fumoso e gli incontri serrati di questo pomeriggio. Guido. Se non ti è venuta fame, se non vuoi commentare il menù, insomma, se vuoi darmi anche un commento sul menù, prendo. Il menù non è una, diciamo, non è una notizia perché si sapeva, diciamo, che i menù della Camera e del Senato e i ristoranti riservati a deputati e senatori godono di prezzi molto bassi, no? Se pensiamo pesce spada 3,50 €, mm-hmm. Immaginiamo quanto quando andiamo al ristorante che filetto di orata 5,23 €, ecco, che cosa costa. certamente non, diciamo, anche se abolissimo da domani, diciamo, con un decreto il ristorante di casa, cioè, non risolviamo il problema del bilancio pubblico, è ovvio, però in questo momento dà, diciamo, la misura di poi, diciamo, di quanto sia, diciamo, urticante una notizia di questo genere, perché sul, dal lato dei costi della politica, e qui vengo per esempio agli interventi che ci sono stati oggi in Commissione Affari Costituzionali e Bilancio, dove è intervenuto Tremonti, sul lato della vostra politica oggi per esempio Tremonti ha detto che bisogna fare di più, quindi siamo passati, diciamo, da un decreto, quello del 6 luglio del governo, poi approvato in Parlamento a metà luglio, dove si prospettava la nascita di una commissione che avrebbe dovuto studiare come adeguare gli stipendi e le indennità dei parlamentari italiani a quelli europei, commissione che poi è stata istituita una decina di giorni fa. Quindi siamo passati però da quella fase lì a un, diciamo, minimo ridicolo intervento per quanto riguarda le auto blu, alla evidente constatazione che bisogna fare di più. Tremonti non si è, diciamo, non ha precisato, ha fatto un riferimento al, anche questo consueto, al dimezzamento di parlamentari, di senatori e deputati, cosa che tra l'altro io vorrei ricordare era stata già prevista nel 2005 e poi, diciamo, con un disegno di legge di revisione costituzionale, quella sulla famosa devolution, che poi fu bocciato, certo, però fu bocciato poi dagli elettori nel referendum del 2006, questo va ricordato. E quindi torniamo a parlare di questo tema, dobbiamo anche tener conto che da questo punto di vista i tempi sono lunghi, perché parliamo di un progetto di revisione costituzionale, e quindi, come nel caso dell'articolo 41 sulla libertà d'impresa e l'articolo, la revisione dell'articolo 81 sul pareggio di bilancio in Costituzione, di cui si è parlato oggi, sì, ci sono tempi lunghi. Ecco, dimmi una cosa in conclusione, il fatto che Tremonti sia stato considerato fumoso da Bossi, da Casini, fa parte della tattica perché il ministro non poteva raccontare quello che c'è nel decreto, oppure secondo te è sintomo più di incertezza? Diciamo che siamo a metà strada, cioè per una parte è inevitabile, qui siamo alle viste di un decreto che potrebbe uscire, qualcuno diceva addirittura stasera, io forse non credo stasera, ma domani è molto probabile, domani pomeriggio a mercati chiusi, quindi è diciamo comprensibile la cautela del ministro, visto che parliamo, tra l'altro Tremonti ha praticamente detto che andiamo per decreto all'armonizzazione fiscale, del trattamento fiscale sulle rendite finanziarie, quindi dire, già qualcosa l'ha detta, insomma. Quindi da una parte è comprensibile, diciamo, la presenza, sì, di Tremonti, e dall'altra però rispecchia per l'altra metà, per esempio hai citato Bossi, che su alcune misure prospettate dal governo e che sono inserite, come ha spiegato Tremonti, nella lettera che Trichet ha inviato al governo italiano, c'è per esempio la questione delle pensioni di anzianità, del taglio delle pensioni di anzianità, su cui Bossi non è d'accordo, anche se oggi ha detto che dovremo trovare un compromesso, quindi insomma la partita è aperta. Noi tireremo domani, se arriverà domani il disegno di legge sulla finanziera. Grazie per ora Guido Gentile, editorialista del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barigioni gli auguro di una buona serata, ci risentiamo domani magari con il menù anche della Camera dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.